Bibbia Martini, primo libro dei Re 21 Nabot per aver negata la tua vigna al re Ashab, accusato da falsi testimoni, per ordine di Jezabele è ucciso. Dopo di ciò mentre Ashab va in fretta ad occupare la vigna, Elia minaccia a lui moltissime sciagure, ma Ashab si umilia, e ne va esente. Dopo queste cose in quel tempo successe, che Nabot Jezreelita aveva in Jezreel una vigna presso al palazzo di Ashab re di Samaria. Ashab dunque parlò a Nabot, e disse-gli, dammi la tua vigna, di cui vo farmi un orto di erbaggi, perché ella è vicina, e contigua alla mia casa, e darotti in sua vece una vigna migliore, o, se lo credi più utile per te, quel prezzo, che ella merita, in denaro. Rispose a lui Nabot, così mi aiuti il Signore, come io non darò a te l'eredità dei padri miei. Ashab pertanto si ritirò a casa sua sdegnato, e fremando per quella parola dettagli da Nabot Jezreelita, non darò a te l'eredità dei padri miei. E gettatosi sul suo letto, voltò la faccia verso il muro, e non prese cibo. Or Jezabele sua moglie andò a trovarlo, e gli disse, che è questo? Qual motivo hai di attristarti e per qual ragione non mangi? E quegli le rispose, io ho parlato a Nabot Jezreelita, e gli ho detto, dammi la tua vigna, e prendi il denaro, o, se così ti piace, ti darò una vigna migliore invece di quella. Ed egli ha detto, io non ti darò la mia vigna. Disse adunque a lui Jezabele sua moglie, tu hai una grande autorità, e governi bene il regno di Israele. Alzati, e prendi cibo, e sta di buon animo, io darò a te la vigna di Nabot Jezreelita. Ella dunque scrisse una lettera a nome di Ashab, e la sigillò col sigillo di lui, e la mandò ai signori, e ai magnati, che stavano in quella città, e abitavano insieme con Nabot. E la sostanza della lettera ella era questa, intimate il digiuno, e fate sedere Nabot tra i principali del popolo. E mandate sotto mano due uomini figliuoli di Belial, i quali rendano falso testimonio contro di lui, e dicano, egli ha bestemmiato contro Dio, e contro il re, e voi conducete il fuora, e lapidatelo, e così muoia. Fecero pertanto i concittadini di lui, i signori, e i magnati, che abitavano con lui in quella città, secondo il comando di Jezabele, e secondo quello, che conteneva la lettera scritta ad essi. Intimarono il digiuno, e fecero sedere Nabot tra i principali del popolo. E fatti venire due uomini figliuoli del diavolo, li fecero sedere in faccia a lui, che quelli, come uomini del diavolo, rendettero questa testimonianza contro di lui dinanzi al popolo, Nabot ha bestemmiato contro Dio, e contro il re, per la qual cosa lo condussero fuori della città, e lo uccisero lapidandolo. E mandarono a dire a Jezabele, Nabot è stato lapidato, ed è morto. Ora avendo Jezabele udito, come Nabot era stato lapidato, ed era morto, disse ad Ashab, va, prendi possesso della vigna di Nabot Jezreelita, il quale non volle contentarti, e dartela a denaro contante, però che Nabot non vive, ma è morto. La qualcosa avendo udita Ashab, viene a dire, come Nabot era morto, si mosse per andare alla vigna di Nabot Jezreelita, per prenderne il possesso, ma il Signore parlò ad Elia Tesbite, e gli disse, levati su e va incontro ad Ashab re di Israele, che è in Samaria, ecco, che egli va alla vigna di Nabot, per pigliarne il possesso. E tu parlerai a lui, e dirai, queste cose dice il Signore, hai ucciso, e di più vai a prender possesso. E di poi soggiungerai, queste cose dice il Signore, in quel luogo, dove i cani hanno leccato il sangue di Nabot, ivi pur leccheranno il tuo sangue. E Ashab disse ad Elia, mi hai tu forse conosciuto per tuo nemico? E quegli disse, ti ho conosciuto, perché tu ti sei venduto, per fare l'iniquità nel cospetto del Signore. Ecco, che io manderò guai sopra di te, e mieterò la tua posterità, e ucciderò della casa di Ashab fino i cani, e i rinchiusi, e gli ultimi in Israele. e la tua casa farò simile alla casa di Geroboam figliuolo di Nabat, e simile alla casa di Baasa figliuolo di Aia, perché tu hai cercato di provocarmi a sdegno, e hai fatto peccare Israele. E parimente riguardo a Jezabele ha parlato il Signore, dicendo, i cani mangeranno Jezabele nella campagna di Jezreel. Se Ashab morrà in città, lo mangeranno i cani, se Ei morrà in campagna, lo mangeranno gli uccelli dell'aria. Non fu adunque altro uomo simile ad Ashab vendutosi per fare il male nel cospetto del Signore, però che era messo su da Jezabele sua moglie. E diventò abominevole a segno, che andava dietro agli idoli fatti dagli Amorrei, i quali il Signore aveva distrutti all'arrivo dei figliuoli d'Israele. Ma Ashab avendo udite queste parole, stracciò le sue vestimenta, e coperse la sua carne di cilizio, e digiunò, e dormì involto nel sacco, e andava col capo basso. E il Signore parlò ad Elia Tesbite, e disse, non hai tu veduto come Ashab si è umiliato dinanzi a me? Perché egli adunque si è umiliato per rispetto a me, io non manderò quelle sciagure, mentre egli sarà vivo, ma ai tempi del suo figliuolo io le manderò sopra la sua casa. 21,32 punti così mi aiuti il Signore, così io non darò a te l'eredità dei padri miei. La legge non permetteva, se non in caso di estrema necessità. Levit 25. 15. 23. 25. E Nabot non era in bisogno, né avrebbe potuto sperare di riavere la sua vigna nemmeno nel tempo del giubileo secondo la legge. Vedesi, che Nabot era molto esatto osservator della legge, lo che è da ammirarsi in tanta corruzione di costumi, quanta n'era allora nel paese delle dieci tribù. 21,92 punti intimate il digiuno. Alle adunanze, che si facevano per altari di grande importanza, si premetteva il digiuno. Vedi 2. Parav. 20. 3. 4. Esdra. 8. 21. In questa occasione volle Jezreel dar ad intendere al popolo, che si trattava di negozio di somma conseguenza per la comune salvezza, e, che si voleva procedere con tutta giustizia, cominciando dal placare Dio mediante la penitenza. Fate sedere Nabot tra i principali e invitatelo all'adunanza, e dategli luogo distinto, qual si conviene alla sua condizione. Così non parrà futto, se non per gelo di giustizia quello, che è ordito contro di lui. 21,13 punti lo uccisero lapidandolo. Uccisero lui e i suoi figliuoli. 4. Regio. 1. 26. Quanti peccati in un sol fatto. Ipocrisia, menzogne, spergiuri, testimonianze false, corruzioni di giudici, e tutto questo sotto apparenza di pietà. È ben infelice quel regno, dove il rispetto per l'ingiusto voler di un sovrano può riunir tante persone a tradire la propria coscienza per compiacerlo. 21,15 punti va apostrofo. Prendi possesso della vigna Eca. Probabilmente a titolo di confiscazione per causa di delitto di lesa maestà. Vedi 4. Regio. 9. 7. 21,19 punti nel luogo, dove i cani han leccata il sangue di Nabot, Eca. Ashab si pentì e si umilie, come vedremo, e la predizione non si adempie sopra di lui, ma ebbe il suo effetto sopra il figliuolo Joram. 4. Ragionier 9. 25. 21,27 punti Ma'ashab stracciò le sue vestimenta. Secondo Grisostomo, S. Ambrogio e vari interpreti credettero vera e sincera la penitenza di Ashab, e certamente Dio per ragione di questa rivocò almeno in parte la sentenza pronunziata contro di lui. S. Gregorio però credette, che l'umiliazione dell'empio re procedesse dal timor del castigo, non davvero amore della giustizia, e conchiude, che da questo fatto si di comprendere fino a qual segno sia grata a Dio la penitenza e la comparizione degli eletti, che temono di perdere Dio, mentre così a lui piacque la penitenza di un reprobo, che temeva di perdere i beni presenti. Egli adunque schivò la pena temporale, ma non meritò il perdono della colpa, e ricadde ben presto nei suoi disordini, e finì miseramente la vita, come vedremo.